Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti. Questo è il podcast di Effetto Giorno, al microfono Simone Spezia. Grazie per averlo scaricato. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. È l'occasione questa nella quale facciamo un punto sulla giornata. In primo piano ovviamente c'è l'andamento dei mercati e soprattutto dei nostri titoli di Stato, ma naturalmente non solo quello. Si devono giudicare gli insegnanti e gli scatti di stipendio devono essere sulla base del merito, non sulla base dell'anzianità. Sono passati 6 mesi da questa dichiarazione, oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri. A quanto pare questa idea di far avanzare gli scatti di merito, di utilizzare gli scatti di merito e non gli scatti di anzianità e quindi premiare gli insegnanti per il merito, potrebbe non passare perché ci sono forti resistenze dei sindacati. Il Consiglio dei Ministri si riunisce su questo e si riunisce anche sulla riforma della RAI. Di questo ovviamente parleremo. Ma noi crediamo che anche due persone che sono da sole debbano avere la possibilità di pensarci bene. Un'opinione che fa discutere è quella del nuovo centrodestra in merito all'ipotesi che insieme al cosiddetto divorzio breve si voti il divorzio immediato, ossia per le coppie che sono in determinate condizioni, non hanno per esempio figli minori o figli maggiorenni ma handicappati, figli non autosufficienti sotto i 26 anni, ebbene queste persone possono decidere di non passare dalla separazione e divorziare immediatamente. NCD non è d'accordo, avete sentito il perché, più avanti sentiremo l'intervista. Assolutamente, se il dato fosse vero sarebbe un dato veramente preoccupante. Alla faccia di preoccupante sono i dati sulle assenze di un giorno solo, quelle per una sola giornata, al Comune di Roma, che nell'ultimo triennio rispetto al triennio precedente sono passate da 37.000 a 50.000. La voce che avete sentito è quella di un sindacalista che definisce il dato appunto preoccupante. Ne abbiamo parlato con lui e ne abbiamo parlato anche col vice sindaco di Roma, Nieri. Proprio la perquisizione nell'abitazione dell'Annunziata ha portato al rinvenimento della somma di 587.000 euro in contanti tenute in scatole di scarpe. Mezzo milione di euro in contanti in una scatola di scarpe e sequestri per 210 milioni di euro. Una maxi operazione della Procura di Reggio Calabria contro l''Ndrangheta. Abbiamo intervistato, la voce che avete sentito è quella del procuratore capo di Reggio Calabria, Cafiero De Rao. Infine all'estero con l'Iraq, dove immagini della BBC mostrerebbero l'utilizzo di bombe al cloro da parte dell'ISIS e quindi vere e proprie armi chimiche. Iniziamo dallo spread con la nostra Deborah Rosciani. Le tre aste odierne con cui il Tesoro ha collocato BTP fra 3 e 30 anni per un totale di 7 miliardi e 250 milioni di euro. Abbiamo visto rendimenti in netto calo, sono stati emessi 2 miliardi e mezzo di euro di titoli a 3 anni, il rendimento è sceso allo 0,15%, un valore che rappresenta il minimo di tutti i tempi. Poi BTP a 7 anni collocati per 7 miliardi, anche in questo caso con un forte calo dei rendimenti, scesi allo 0,71%. Infine il titolo a 30 anni ha avuto un rendimento dell'1,86%. Naturalmente su tutto questo sta continuando a scendere anche l'indicatore più significativo che monitoriamo costantemente, vale a dire lo spread fra BTP e Bund, il differenziale di rendimento sul titolo decennale. Ha toccato anche gli 83 punti base, con il rendimento per questo titolo che stamattina non era in asta, quindi valutiamo come sta andando sul mercato secondario. Il rendimento, dicevamo, che è sceso anche in questo caso al suo minimo di tutti i tempi, all'1,05%. È l'effetto Draghi, naturalmente, come dicevate. Proprio ieri il numero uno della Banca Centrale Americana, commentando ancora gli effetti del suo quantitative easing, ha detto che L'operazione funziona, protegge l'area euro dal contagio della crisi greca. Questa corsa a ribasso peraltro sembra non essere destinata a fermarsi, perché sul mercato c'è la percezione che questo rally non sia esaurito, gli operatori ne sono convinti. Questo il punto per quanto riguarda i mercati, per quanto riguarda soprattutto i titoli di Stato. Nel frattempo il governo è alle prese con due riforme, la riforma della scuola e la riforma della RAI, due temi sui quali si dibatte praticamente da sempre. Per quanto riguarda la riforma della scuola, come vi abbiamo fatto sentire all'inizio nei titoli, a quanto pare si starebbe arretrando sulla possibilità di premiare gli insegnanti con il merito. Sentiamo. Il dietrofront più clamoroso riguarda la valorizzazione e il merito degli insegnanti. Il premier Renzi, da settembre, quando aveva presentato la buona scuola, ne aveva fatto un tormentone. E molti avevano accarezzato l'idea di vedere finalmente premiati con aumenti di stipendio i tanti insegnanti bravi che alla scuola danno l'anima. Invece niente da fare, se verranno confermate le indiscrezioni della vigilia, il governo manterrà gli aumenti di stipendio automatici, cioè quelli uguali per tutti e legati all'anzianità. Troppe le resistenze sindacali, troppi commenti negativi arrivati durante i due mesi di consultazione pubblica. Qualche soldo in più agli insegnanti che lo meritino arriveranno solo se si riusciranno a trovare le risorse aggiuntive, cosa davvero molto improbabile, e verrebbe distribuito direttamente dai presidi. Davvero un peccato per il governo e per il paese, dopo tanto strombazzare, aver perso nuovamente l'occasione di innovare la scuola e aver ceduto alle spinte più conservatrici. Ai prof più bravi, ma anche a quelli che invece bravi non sono, resta il contentino dei 400 euro previsti dalla carta dei prof da spendere in consumi culturali come libri, mostre, teatro. Una bella cosa davvero, ma uguale per tutti, ancora una volta. Sugli altri fronti del piano scuola resta ancora incerto il numero dei precari che verrebbero stabilizzati dal 1 settembre. Si parla ora di 100.000, ma i tempi lunghi del disegno di legge potrebbero consentire l'assunzione quest'anno solo sulla base del turnover, per rimandare la maxi stabilizzazione al prossimo anno, alla faccia delle promesse di Renzi e del ministro Giannini. Sul fronte degli sgravi fiscali alle paritarie, anche qua un dietrofront. Sarebbero infatti concessi soltanto ai genitori che iscrivono i figli alle paritarie, alla scuola dell'infanzia e alla primaria. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per la RAI che cosa si prospetta? Si prospetta un modello che alcuni definiscono alla tedesca. Comunque sia, ci sarà un capo azienda classico, un amministratore delegato. Un super manager con ampi poteri, un consiglio di amministrazione con 7 membri al posto dei 9 attuali, 3 nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Economia, di cui uno sarà l'amministratore delegato, 3 dalle Camere in seduta comune, 1 votato dai dipendenti RAI. Quest'ultima ha una novità assoluta in Italia sul modello di quanto avviene nelle aziende tedesche. Basta con i consiglieri di amministrazione generalisti, ciascuno dovrà essere scelto in base alla propria specializzazione attraverso candidature palesi e curricula pubblicati. Online. Quanto alla commissione di vigilanza resterebbe in vita, ma come organismo di controllo senza i poteri di nomina attuali. Questi punti cardine della riforma della RAI che nel pomeriggio arriverà in Consiglio dei Ministri sotto forma di linee guida che presto si trasformerà in un disegno di legge da sottoporre al Parlamento. Nel documento si legge che l'obiettivo è mettere la RAI nelle migliori condizioni per informare, educare e divertire e per poter essere la più innovativa azienda culturale italiana. Non ci saranno più RAI 1, RAI 2 e RAI 3, tutte generaliste sovrapponibili, ma una rete generalista, una per l'innovazione, una a carattere spiccatamente culturale senza spot. Resta ancora aperto il nodo del canone. L'idea del sottosegretario allo sviluppo Giacomelli è di collegarlo alla bolletta elettrica. Quella di Matteo Renzi è di abolirlo del tutto. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla politica più pura. Oggi c'è la presa di posizione dei vescovi contro Silvio Berlusconi. La Chiesa italiana gela Silvio Berlusconi all'indomani dei festeggiamenti per la sua assoluzione al processo Ruby. C'è molto da riflettere su come è stato imbastito il processo e sulle sue conseguenze, ma l'esito penale favorevole a Berlusconi non cancella il rilievo istituzionale e morale del caso, scrive oggi sul quotidiano dei vescovi Avvenire il direttore Marco Marco Tarquinio. Anche soltanto per il fatto che un simile processo sia stato possibile, è evidente che una soluzione con le motivazioni finora conosciute non coincide con un diploma di benemerenza politica e di approvazione morale, sottolinea Tarquinio, un intervento poi sottoscritto anche dalla stessa Conferenza Episcopale Italiana. Avvenire ha preso una posizione coraggiosa che va sostenuta e confermata, spiega stamattina il segretario generale della CEI, Nunzio Galantino. La questione non riguarda soltanto Berlusconi, ma il dettato legislativo arriva fino ad un certo punto. Il discorso morale è un altro, afferma il religioso, che prendendo ad esempio la legge sull'aborto fa presente che se un fatto è legale non è detto che sia anche morale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Approda in Senato nel frattempo il disegno di legge sul divorzio breve. È un disegno di legge sul quale un po' tutta la maggioranza è d'accordo, tranne che su un punto, quello che vi dicevamo all'inizio, ossia il cosiddetto divorzio immediato. Le coppie in determinate condizioni, quando per esempio non abbiano figli minorenni o non abbiano figli con disabilità, possono non passare attraverso la separazione, ma andare direttamente a divorzio. Ne abbiamo parlato con Federica Chiavaroli, che è vice capogruppo del Nuovo Centrodestra al Senato, un Nuovo Centrodestra che si oppone a questa norma, anche se non così nettamente come era sembrato all'inizio. Sentiamo l'intervista. Ma noi crediamo che questa parte del provvedimento cancella in sostanza la fase della separazione. Noi alla fase della separazione attribuiamo un valore importante, perché è una fase nella quale la coppia medita sulle proprie scelte. Siamo perfettamente consapevoli e quindi d'accordo nel modificare i tempi di questa fase, che riteniamo al momento troppo lunghi, ed è per questo che noi voteremo favorevolmente il provvedimento, essendo d'accordo sul fatto che un anno per la procedura di separazione senza accordo e 6 mesi per la procedura di separazione consensuale siano una fase di riflessione sufficiente. Riteniamo assolutamente invece insensato eliminarla del tutto questa fase, e quindi noi chiediamo questa parte della norma sia stralciata. Però mi scusi, senatrice, la mia domanda è questa: prendiamo queste due persone che non hanno figli minori, quindi non hanno persone a carico, per così dire, no? Sono responsabili solo di loro stesse. Se queste persone sposate a un certo punto decidono di divorziare, che danno creano, immagino, dal vostro punto di vista, alla società, e che danno creano in assoluto? Ma noi crediamo che contraendo il matrimonio due persone decidono di mettere su famiglia, anche se la famiglia è composta soltanto dalle due persone che hanno contratto il matrimonio. Noi crediamo che prima di sciogliere nel codice civile un contratto, quindi prima di sciogliere questo vincolo, anche due persone che sono da sole debbano avere la possibilità di pensarci bene. Diventerebbe una sorta davvero di matrimonio in prova, che si può sciogliere come a Las Vegas in qualsiasi momento. Noi su questo non siamo d'accordo, ma le dico che la nostra non è una posizione ideologica, tanto che noi abbiamo chiesto lo stralcio della norma, non l'abrogazione. Le spiego tecnicamente qual è la differenza. Una norma abrogata viene cancellata e muore così. Una norma stralciata diventa oggetto di un disegno di legge apposito che inizia il suo iter. Noi che cosa vogliamo fare? Adesso approviamo il disegno di legge sul divorzio breve. Mettiamo alla prova le nuove norme, vediamo come funzionano, e nel frattempo avviamo il disegno di legge sul divorzio istantaneo, chiamiamolo come vogliamo, vedendo come funzionano le nuove norme che stiamo approvando. Quindi c'è, quindi c'è contrarietà di principio, ma non una pregiudiziale al fatto che il divorzio immediato, nel caso di non funzionamento delle altre norme, possa invece diventare una legge. Ma vede, il fatto che la nostra non è una opposizione ideologica è dimostrato dal fatto che noi abbiamo votato favorevolmente alle norme nelle quali abbiamo inserito il cosiddetto divorzio facile, cioè quello che si può fare addirittura davanti al sindaco. Adesso siamo d'accordo anche sul divorzio breve. Chiediamo di mettere queste norme in funzionamento, di verificarne l'efficacia, di verificare se funzionano, perché vede, qual è il nostro obiettivo votando favorevolmente a queste norme? È di rendere il matrimonio un più diffuso, più praticato. Noi crediamo che il matrimonio sia l'istituto con il quale si mette su famiglia. Noi vogliamo che più persone mettano su famiglia e che il fatto che questo istituto sia così complicato da sciogliere non sia dissuasivo nei confronti di chi vuole mettere su famiglia, perché riteniamo che con l'istituto regolato dal codice civile ci si assumano delle responsabilità, soprattutto nei confronti delle parti deboli poi della famiglia, e allora, quelle vogliamo tutelare soprattutto. Siamo alla cronaca, iniziando da fatti avvenuti nella serata di ieri. Sono dei fatti che toccano ancora una volta Tor Sapienza. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato molto, quel quartiere alla periferia di Roma nel quale ci fu una protesta durissima contro un centro per rifugiati. Ebbene, ieri si è riaccesa una protesta, ma da quel che ci ha raccontato il vice sindaco di Roma Luigi Nieri è una protesta che non è collegata in questo caso al centro per rifugiati. Nieri è stato questa mattina là, sono stati incendiati dei cassonetti, ecco il suo racconto. Noi due mesi fa andammo a Tor Sapienza invitati dal comitato e prendemmo tra i vari impegni anche quello dello spostamento di questi giovani ragazzi che appunto erano ospiti di questo centro. L'assessore Francesca Danese giustamente ieri sera ha accelerato questo trasferimento che però doveva avvenire da qui a qualche giorno, per cui però la circoscriverei intanto il fatto sull'argomento che ha generato questa protesta, perché è stata una protesta, non ci sono stati assolutamente i fatti violenti della volta precedente, ma che non c'entrava niente con il centro, perché era una protesta che era partita da alcuni inquilini delle case Ater, che sono appunto quelle di fronte al centro, delle lettere indirizzate dall'Ater che appunto erano indirizzate per diverse situazioni di irregolarità e che erano state riscontrate. Quindi è stata una protesta di fatto degli inquilini Ater. Inquilini Ater, però siccome questa protesta è avvenuta quando parliamo del quartiere lì parliamo dell'edificio Ater e di fronte c'è l'edificio dove appunto erano ospiti questi ragazzi, per cui comunque all'inizio si era pensato che era una nuova protesta, ma insomma sono stati chiarissimi anche questa mattina i cittadini del comitato, che oltretutto incontreremo oggi pomeriggio, per cui il clima diciamo è un clima tranquillo nel quartiere. La vorrei, prima di andare sul traffico, quindi salutarla brevemente per 20 secondi, vice sindaco, sollecitarla su un altro elemento. Sono stati diffusi nei giorni scorsi questi dati sulle assenze per un giorno dei dipendenti del comune di Roma, che sembrano essersi drammaticamente incrementate fino al numero di 50.000 in un anno nel corso di quest'anno. Più avanti noi sentiremo un sindacalista di Roma e del Lazio proprio per chiedere spiegazioni anche a lui. Vorrei capire come interpretate questi dati. Sono passati da 37.000 a 50.000? Siamo però all'interno della media nazionale, per cui noi abbiamo avuto un anno molto complicato perché appunto il Ministero dell'Economia e Finanze ci ha contestato il vecchio salario accessorio che andava avanti da decenni. L'abbiamo dovuto modificare, siamo arrivati finalmente a una preintesa che è stata firmata da CGIL sì. e CISL. Nelle prossime settimane ci sarà sì. il referendum, per cui che coinvolgerà sì. tutti i cittadini. Non vorrei assolutamente che si innestassero situazioni di tensione in un momento dove invece siamo riusciti a rasserenare il clima tra l'amministrazione e i dipendenti sì. su un fatto che di per sé preso come numeri sì. può sembrare eclatante, ma stiamo parlando sempre di oltre quasi 24.000 dipendenti. Sì. Il dato va analizzato, andrà che vorrebbe dire in media due assenze da un giorno a dipendente in tutto l'anno. Però è la famosa media di Trilussa, lo sappiamo benissimo. Allora, vice sindaco, però invece la sì. cosa vera è che abbiamo incontrato appunto Tito Boeri e che su questi dati ci lavoreremo. E come avete sentito c'è anche la questione dei sindacati e di Roma, ne torneremo a parlare tra un attimo. Intanto restiamo sulla cronaca per toccare questa maxi inchiesta contro l'Andrangheta e contro il clan dei Piromalli. 210 milioni di euro sequestrati, in particolare si tratta di un grande parco commerciale in Calabria, il più grande della Calabria, in una giornata nella quale la Direzione Investigativa Antimafia di Roma ha anche messo i sigilli, sequestrato due ristoranti in pieno centro che, stando a quello che sostiene la DIA, erano gestiti e finanziati proprio da denaro dell'Andrangheta. Abbiamo intervistato il procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao. Ecco. Sì, oggi è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Alfonso Annunziata, titolare del centro commerciale Annunziata di Gioia Tauro. È un centro commerciale in parte occupato da ditte, società riconducibili all'Annunziata, in parte dato in locazione a vari esercenti commerciali. Il parco commerciale più grande della Calabria, mi sembra di aver capito. Sì, no? Il parco commerciale più grande della Calabria. Ecco, nell'ambito di questa operazione ci sono state perquisizioni nella regione coinvolta, insomma la Calabria, quella di vostra competenza, poi se non erro anche in Campania e anche in Toscana, procuratore? Sì, in vari siti, ma peraltro devo sottolineare come proprio la perquisizione nell'abitazione dell'Annunziata ha portato al rinvenimento della somma di 587.000 euro in contanti tenute in scatole di scarpe. Quindi questo già dimostra mezzo milione di euro in contanti a casa, il che per la verità è già significativo della modalità attraverso le quali evidentemente si conserva dei rapporti che in zona necessariamente si devono avere. Senta, la notizia che al di là dei 210 milioni di sequestro, la notizia che sta dominando le home page dei quotidiani online in queste ore è il sequestro di due ristoranti nel centro di Roma. Siamo a due passi dal Pantheon. Ma non sono nuove le attività economiche di questo tipo per l'Andrangheta e oramai sono all'ordine del giorno. L'Andrangheta, io ricordo sempre, esercita la gestione del traffico internazionale della cocaina e questo comporta che nel solo porto di Gioia Tauro ogni anno viene sequestrato un sì. quantitativo almeno di una tonnellata sì. e mezzo di cocaina. Sì. Questo significa che una percentuale sicuramente di gran lunga superiore, quindi una quantità di gran lunga superiore. Mi scusi procuratore, la interrompo perché probabilmente gli ascoltatori avranno sentito un filo di incertezza. In realtà questa parte dell'indagine non vi riguarda, è della DIA di Roma, se non erro, o sì, è collegata alla vostra? No, non ci riguarda, no. Però voglio evidenziare, no, non ci riguarda questa parte, voglio soltanto evidenziare che il reinvestimento sul territorio nazionale è enorme proprio perché sono enormi gli introiti che l'Andrangheta riesce a procurarsi attraverso il traffico di stupefacenti. Avete una stima, procuratore, di quanto una cosca come quella dei Piromalli o l'Andrangheta in genere abbia che cifra abbia necessità di ripulire ogni anno, per avere anche un'idea di quanto poi questi soldi vadano ad essere reinvestiti nell'economia legale? No, una stima non l'abbiamo, però è molto difficile, diciamo. Si può desumere dalla circostanza che se una tonnellata e mezzo viene sequestrata e l'Andrangheta continua a importare attraverso Gioia Tauro, è evidente che la quantità che entra è di gran lunga superiore. Se questa quantità di gran lunga superiore poi viene tradotta in denaro e distribuita sul mercato internazionale, fa comprendere quanto elevati siano i profitti e quanta enorme sia la capacità di reinvestimento dell'Andrangheta. E soprattutto questi profitti finiscono per essere portati sul mercato in settori diversi. Ora abbiamo il centro commerciale, altrove abbiamo ristoranti, abbiamo alberghi, abbiamo le più diverse attività. Questo sta a significare quanto inquinato possa essere il mercato dalle organizzazioni criminali. L'ultima domanda le vorrei chiedere questo, come ultima domanda: quanto ha influito anche la crisi su tutto questo? Ne abbiamo parlato spesso, ma non, come dire, non ci stanchiamo mai di dirlo, cioè il fatto che ci sia stata una stretta del credito, una maggiore difficoltà per gli imprenditori, la prospettiva di denaro per così dire facile o della cessione della propria impresa a persone che disponevano di contanti è diventata, se vogliamo, un po' più immediata, un po' più rapida, no? Ma questo è l'altro canale attraverso il quale l'Andrangheta si inserisce nell'economia: la capacità di denaro, quindi la capacità di offrire un sostegno che apparentemente è un aiuto, ma in sostanza con il tempo si traduce nell'occupazione delle aziende, delle imprese, nell'impossessamento delle stesse e quindi in un inquinamento sempre più profondo del mercato, rispetto al quale o l'imprenditore ha la capacità di denunciare e opporsi, oppure è costretto a soggiacere. L'Andrangheta entra offrendo denaro anche a costi bassi, ma via via le pretese diventano sempre maggiori e di fronte alla violenza rivolta non soltanto nei confronti del soggetto, ma nei confronti di familiari e altri, l'imprenditore finisce per soggiacere. Ecco perché l'unica strada che ha a quel punto è quella di denunciare. E ancora pochissime però sono le denunce, almeno in questo campo. Siamo a parlare di sindacati e non solo, di sprechi e di un altro fatto di cronaca soprattutto che riguarda i piloti di aerei. Vi abbiamo raccontato nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, della vicenda di alcuni piloti sorpresi, pur essendo in cassa integrazione, quindi ricevendo il denaro della cassa integrazione, a lavorare per compagnie aeree straniere, nascondendo questo all'INPS e all'Italia, quindi continuando a ricevere tanto i soldi della cassa integrazione quanto i soldi del nuovo stipendio. Questa indagine si sta allargando, la Guardia di Finanza ha iniziato a fare un po' di conti e ha scoperto che si tratta di almeno 400 persone, si tratta di un danno per l'erario da 20 milioni di euro. Il servizio. Lavoravano all'estero ma continuavano a percepire la cassa integrazione in Italia e la vicenda che ritrae 400 piloti all'Italia smascherati da un'inchiesta della Guardia di Finanza che ha stimato in circa 20 milioni di euro il danno all'erario italiano. Mentre si prosegue con le verifiche sono scattati i primi sequestri preventivi, 300.000 euro da conti correnti e abitazioni sottoposte a ipoteca con un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Per il momento le posizioni illecite a cui è seguita una denuncia in procura sono 44 per un equivalente di 9 milioni di euro, ma queste sono cifre destinate ad aumentare, anche perché le posizioni che sono risultate sospette sono circa 330 solo per quanto riguarda i piloti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cristina Carpinelli ne ha anche chiesto conto a Ivan Vighetti, che è responsabile piloti della Will Trasporti. Come l'abbiamo presa? L'abbiamo presa male, perché si rischia, diciamo, c'è molta demagogia, molto sensazionalismo, e si rischia per alcuni casi che magari sono realmente casi di malagestio su cui noi non transigeremo e siamo noi i primi a condannarli e a condannare quel tipo di comportamenti e a collaborare per fornire le indicazioni laddove ci vengano richieste. però parliamo di numeri che non sono quelli che si preannunciano, insomma, sui giornali. Alcuni sono già anche andati a giudizio, sono stati anche assolti, perché diciamo ci sono dei tecnicismi un po' particolari rispetto ad alcune professioni. Però no, qua diciamo, stiamo parlando di piloti che erano in volo su altre compagnie private percependo la cassa integrazione, anche se fossero stati 5, comunque diciamo è la storia in sé che fa impressione, no? Perché No, anche se fosse stato solo uno, è una cosa esecrabile, non c'è dubbio, e va assolutamente combattuta. Ma tuttavia non si può, per 1, 2, 5, 10, quelli che sono casi, come dire, buttare via, mi passi la semplificazione, il bambino con l'acqua sporca, no? Ecco. Ne abbiamo parlato poco fa col vice sindaco di Roma e adesso ci ritorniamo. La vicenda delle malattie tra i dipendenti del Comune di Roma. Le malattie, quelle che durano solamente un giorno, a volte magari anche attaccate al fine settimana, sono passate dalle 37.000 del triennio precedente alle 50.000 del triennio attuale. Abbiamo chiesto qualche spiegazione anche alla parte sindacale, Roberto Chierchia, che è il segretario generale della CISL Funzione Pubblica per Roma e il Lazio. Intanto comincio con il dire che è grave che di queste assenze non è mai stato contattato il sindacato, non è stato mai interpellato il sindacato. Questa a noi sembra l'ennesima uscita di un sindaco. Se vi avessero interpellato, che avreste detto, Chierchia? Perché vogliamo stare sul al di là, sì, della certo, polemica certo. Col sindaco. Penso che sia doveroso e grave che il sindacato, che comunque in qualche modo tutela i lavoratori, non sia informato di un dato che poi viene sparato, sì, sulla stampa. Noi diciamo che se questo fosse vero sarebbe grave, ma intanto vorrei anche capire meglio questi dati. 50.000 assenze nell'ultimo triennio rispetto a 37.000. 37.000 che numero è? A quale periodo temporale si riferisce, che non è chiaro? E soprattutto vorremmo capire, non abbiamo nessun problema nel essere controllati, anzi vogliamo che ci siano controlli rigorosi, ma soprattutto vogliamo che i dipendenti siano valorizzati, vogliamo trasparenza, partecipazione e contrattazione. Ad esempio, noi crediamo che la preintesa appena sottoscritta, sì, il 6 febbraio ultimo scorso contenga tutte quelle misure per evitare eventuali, diciamo così, furbetti, e consente di valorizzare, sì, davvero chi dà un lavoro di qualità a questa città. Senta, sarà però d'accordo che se l'incremento è quello, se la dimensione è quella, è un dato preoccupante, anche inaccettabile per certi versi. Assolutamente, se il dato fosse vero, ma soprattutto rapportato a un qualcosa di temporale identico, se si fosse detto 37.000 sono è il triennio precedente, ma non è stato detto, sarebbe un dato veramente preoccupante. Su questo vorremmo in qualche modo analizzarlo in sedute che siano veramente fatte con trasparenza e con partecipazione, e vorremmo trovare le soluzioni, vorremmo insomma portare i lavoratori a essere partecipi di quello che si fa all'interno del Comune di Roma, essere valorizzati e sicuramente dare servizi migliori ai cittadini. Siamo all'estero, in Iraq, dove l'esercito iracheno ha preso Tikrit mentre si parla di bombe al cloro usate dall'ISIS. Una bomba esplode lungo una strada irachena. Il fumo che si alza non è nero, ma arancione. Il tipo di fumo che è provocato dalle bombe al fluoro. In Iraq l'ISIS le sta usando. La conferma arriva da fonti ufficiali irachene che si sono basate sulle immagini della BBC. Il gas dovrebbe essere inalato in grandi quantità per essere tossico, ma la nube di fumo arancione che emanano semina il panico fra la gente. Intanto la battaglia ingaggiata dall'esercito iracheno per strappare all'ISIS il controllo di Tikrit è entrata in una fase cruciale. L'esercito e le milizie sciite sostenute dall'Iran sono entrate ieri nei quartieri periferici della città natale di Saddam Hussein, abitata da una popolazione sunnita. Proprio il malcontento della popolazione locale aveva favorito nel giugno scorso l'avanzata dello Stato Islamico in questa regione, dove gli jihadisti avevano trovato sostegno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a chiudere con la serata di Europa League che ci attende e con l'iniziativa di Radio 24, di tutti i convocati, che prende corpo, sia la possibilità per chi ha il biglietto per la partita di accedere gratuitamente ai musei di Firenze. L'esperimento si replicherà la settimana prossima con la partita di ritorno a Roma. Sentiamo il punto anche sulle altre partite, non solo Fiorentina-Roma, con Dario Ricci. Ne possiamo qualificare al massimo 4 perché c'è il derby, ma sarebbe già un pokerissimo da leccarsi i baffi. E allora rapidamente la tabella delle partite oggi, che partono con alle 18 con la trasferta del Torino a San Pietroburgo contro lo Zenit, ed è forse questo l'accoppiamento più difficile per le squadre italiane. Non scherza però neanche l'Inter, che alle 19 in campo a Wolfsburg contro quel Wolfsburg che è la seconda forza del campionato tedesco quest'anno. Alle 21:05 a Firenze, Fiorentina-Roma, il derby, non ci sarà Totti. Giornata che, lo ricordiamo, è caratterizzata anche dall'iniziativa che ha lanciato proprio Radio 24 tramite tutti i convocati, quella dei musei civici gratuiti fiorentini e poi fra una settimana quelli di Roma, per i possessori del biglietto. E sempre alle 21:05 il Napoli riceve la Dinamo Mosca in quello che forse è invece l'accoppiamento più favorevole per i nostri colori. Staremo a vedere, puntiamo al poker. Ed è tutto per il podcast di Effetto Giorno, grazie per averlo scaricato. Se non vi siete ancora iscritti, fatelo, lo potete fare comodamente dal vostro browser internet oppure dal vostro smartphone per avere l'aggiornamento. Nel momento nel quale arriva il podcast di Effetto Giorno avrete una piccola notifica, in genere solo un numerino che appare sull'applicazione che vi dice il podcast di Effetto Giorno è arrivato, così più comodamente saprete il momento esatto nel quale arriva e potrete scaricarlo. Scrivetemi effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, il mio account Twitter Simone Spezia. Ci si sente domani alle 13:00.